Però invece la domanda che volevo fare più invece più legata al fumetto era quello che mi capita di, cioè la percezione che ho avuto da quando ho approcciato con la Bonelli in poi è sempre stato che fosse talmente difficile mantenere soprattutto le robe diciamo non da autore ma da edicola o comunque da fumetteria però il periodico diciamo, a parte pochissimi esempi, sono robe diciamo che vanno a scomparire nel giro, si bruciano qualche anno, nel senso ci sono una montagna di riviste che vai a trovarti però che non esistono più, cioè ti trovi soltanto i numeri vecchi e a parte vabbè qualcosa, cioè chiaramente vabbè blu, comunque erotismo vario, che quello penso che per tutte le stagioni vada bene, però sì, no, è chiaro. Però come funziona? Nel senso, mi sono sempre chiesto come mai è veramente così difficile, non esiste una forma di mercato, è una cosa insostenibile economicamente, non so. Come un po' tutte le categorie artistiche, se fai il film sui dinosauri hai un certo budget, se fai il film sul carcere dipende più dal tipo di carcere. Naturalmente non credere che tutti i libri che vedi in libreria, anche se vai da Petrinelli, vendono tutti 25.000 copie. No, vabbè. Il 95% di quei libri lì non supera le 1.000 copie. E questi tipi di riviste, fumetti, non superano quasi mai le 1.000-1.500 copie. Questi sono i lettori disposti a leggere queste cose in Italia. Ma se tu vai da un coreano, te lo conosci, lui fa una rivista in Corea di questo tipo, il suo dato è 1.000 copie. Poi naturalmente tutto dipende dalla che anche una cosa di questo tipo qui può essere infilata dentro a una moda, a un trendy, a qualcosa che deve essere letto da tutti, che può essere causato da un passaparola eccessivo della gente o perché diventa di moda un autore di questi qui e via dicendo. È successo negli anni 80 con Frigidaire, la vendeva 175.000 copie ogni mese. È stato un momento di fortuna di questi autori e di soprattutto di quelli che scrivevano dentro questa rivista. Ma era una rivista uguale a questa. Avevano una grande star che era Andrea Pazienza. Era come avere David Bowie in compilation. Voi fate un disco, ci mettete David Bowie, vendete un sacco. Non per abbassare il livello loro, naturalmente. Loro erano loro e facevano il loro lavoro perfettamente. Hanno avuto la fortuna di essere nel momento giusto della ricezione giusta della gente, perché era la gente chiunque lo comprava, dalle casalinghe ai 16 anni. Però erano gli anni 80, 81, 70, dopo il 77, quindi era ricettiva per quello. Nel nostro periodo in cui viviamo è ancora più difficile degli anni 80 far sì che una cosa diventi di massa se non è Hello Kitty. Quindi il Codice da Vinci può vendere milioni di copie in tutto il mondo, perché il Codice da Vinci è studiato apposta per vendere, tutti lo possono leggere. Marjane Satrapi è il fumettista più famoso del mondo in questo momento, perché vende 1 milione di copie in Francia, e sembra anche lei studiata apposta per questo tipo di lettura. Chiunque la può leggere, un bambino delle elementari, come una professoressa delle superiori, chiunque. Il suo rapporto con te è così. Inguine è un rapporto ostico col lettore, perché siamo antipatici, non so perché. L'argomento e tutto viene sempre affrontato in maniera ostica, non come fatto politico. E questo fa sì che ci siano poche tirature. Poche tirature vuol dire che spesso la rivista è in perdita. Questo fa sì che le riviste ogni 2-3 anni chiudono, perché gli editori non sono così dei mercenario. Ma al di là tipo dell'aspetto economico del tenere in vita una rivista, che tipo per quanto riguarda il nostro caso, cioè, soffre soltanto delle spese vive, tipo delle spese di stampa e di distribuzione, perché tutto quello che riguarda la cura redazionale non esiste. Cioè, gli autori non sono pagati. Non sono pagati, nessuno viene pagato di quel lavoro lì. Una delle cose più interessanti è comunque vedere che dentro Ingue, di tutti gli autori che vengono pubblicati, mai nessuno è stato pagato, mai nessuno ha cercato dei soldi, nonostante tipo noi siamo riusciti a, a pubblicare anche pagine importanti, come per esempio abbiamo fatto in un numero in cui sono state pubblicate 20 pagine di Ciosacco. Ciosacco è uno che pubblica per Mondadori e tradotto in tutto il mondo, però a noi viene dato tutto gratis perché comunque non so, saremmo simpatici, forse. Naturalmente, sai, questi tipi di riviste qui campano anche molto poco perché non c'è pubblicità sopra di loro. Prima di tutto perché se metti pubblicità gli autori non ti danno più la roba gratis, perché proprio idealmente non si sa perché dovrebbero farlo. E quindi devi capire anche che quelle riviste che vedi in edicola, 40% pubblicità, Flash Art vende 250 copie in Italia, capito? Però è lì da 25 anni perché è coperto finanziariamente. Naturalmente Giosacco allora non gliela dà gratis la storia, e soprattutto loro non gli chiederanno mai un tipo di quel tipo, questo tipo di materiale. Quindi c'è uno scambio di, perché si fa lo stesso tipo di lavoro. Quello che è difficile magari delle volte è cercare di mantenere viva l'attenzione rispetto a quello che fai, rispetto ai contenuti che metti dentro, perché delle volte noi ci siamo trovati anche a pubblicare degli autori o dei segni o dei tipi particolari di lavoro che precedentemente non erano mai stati pubblicati né con le riviste di fumetti né tantomeno dentro un certo circuito. Per cui delle volte magari è più complicato, ma relativamente poi, perché non è tanto una questione di cosa pubblica Ingue, ma di cosa la gente è abituata a vedere o vuole vedere più che altro. Se è Lokitti piuttosto che dei disegni fatti a matita, non so, insomma. Per cui è quello lì. Però ci diverte un sacco farlo. Sì, e poi comunque la... È quello che la cosa potrebbe... Cioè, noi siamo sotto editore, che adesso dal numero 9 cambierà anche, sarà un altro editore. Però gli editori finora che abbiamo avuto ci hanno sempre dato assoluta libertà dei contenuti. Noi gli diamo un CD e loro non possono neanche cambiare le cose. Loro prendono e mettono in stampa. Questo è il cambio che noi chiediamo per lavorare gratis per loro. Quindi il prodotto finale non è neanche discusso. L'editore è un tramite soltanto per noi. Se non c'è l'editore, noi ce lo autoproduciamo, come abbiamo fatto per le cose più personali e speciali, e come abbiamo fatto adesso per il prossimo speciale che si chiama Ingue Mafia, che esce per il Festival di Napoli. È gratuito quello di noi. Questo per avere la massima libertà. Poi dopo